Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. Rimane vietato lo sport da contatto a livello amatoriale e non sono consentite gare, competizioni dell'attività sportiva dilettantistica di base. Per quanto riguarda le palestre, c'è stato un intenso dialogo anche col comitato tecnico scientifico. Allora, abbiamo notizie varie e contrastanti. Molto spesso i protocolli di sicurezza, lo dico molto francamente, sono rispettati puntualmente, sono garantite le massime condizioni di sicurezza. Altre volte ci giungono notizie che non sono adeguatamente rispettati. Allora daremo una settimana per adeguare i protocolli di sicurezza e per verificarne il rispetto. Se questo avverrà, ovviamente con il coinvolgimento anche del competente giudizio del Comitato Tecnico Scientifico, non ci sarà ragione di sospendere e di chiudere le palestre. Altrimenti la settimana prossima, lo preannuncio con molta chiarezza, saremo costretti a sospendere anche l'attività sportiva che si svolge al chiuso nelle palestre e nelle piscine. Questo è un particolare che non necessariamente tutti hanno colto nella sua pesantezza dell'annuncio del presidente Conte delle nuove misure di attenzione e contenimento al Covid che ha annunciato domenica sera agli italiani tutti. Riguarda le palestre. Ora, questo annuncio può aver sortito due tipi di atteggiamento. Se voi siete iscritti a una palestra, vi cominciate a preoccupare. Ha detto molte palestre non sono in regola con quelle che sono le normative prescritte e quindi avrete telefonato alla vostra palestra, se è in regola, quali sono le normative, avranno risposto in maniera precisa o più o meno precisa, comunque come molti stanno facendo avrete pensato, beh per adesso nell'attesa di capire se è in regola, se non è in regola, aspettiamo diciamo la frequentazione alla palestra o non ci andiamo per niente. Più grave e più importante diventa se voi siete un proprietario, un gestore di un'attività di palestra o anche di piscina, che è stato detto nell'ultima parola. Vi dovrete adeguare, dovrete quindi chiedere a qualcuno informazioni per sapere qual è il livello di adeguamento a cui dovete allinearvi per essere in regola, per poter rimanere aperti. Immaginate che questa è l'attività su cui fondate ogni vostra risorsa di sopravvivenza, avete una palestra, gestite una palestra, siete stati attenti, avete messo il sanificatore, fate entrare le persone scaglionate, le tenete a distanza, fate mettere le mascherine. Però questa frase abbastanza sibillina vi avrà acceso delle lampadine e quindi avrete cominciato a fare qualche ricerca, perché oggi siamo già a martedì, bisogna capire esattamente da qui a venerdì, cioè fine della settimana, cosa bisogna fare. Vedo che questo tipo di attività ha impegnato molti proprietari di palestra, ma in particolare vorrei parlare con una persona che ho sentito ieri, lo sentito perché la conosco, non faccio misteri, e molte volte l'abbiamo avuta ospite come le nostre trasmissioni. Comunque è una ragazza che gestisce una palestra, è capo istruttore della scuola di Wing Chun Giunca Rossa a Roma, che ieri come tanti suoi colleghi si è preoccupata. Paola De Caro, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Allora, cosa hai fatto te nella giornata di ieri? Ligia a quello che aveva detto il presidente Conte, aveva detto, beh, devo mettermi in regola perché voglio continuare a fare il mio lavoro. Sì, questo assolutamente. Io ieri ho passato praticamente l'intera giornata al telefono, perché chiaramente noi siamo già in regola da quando è finito il lockdown, perché sia io che tutti i miei colleghi, io sono in contatto con migliaia di colleghi gestori di palestre o comunque ASD, SSD eccetera, e tutti ci siamo messi in regola con tutti i protocolli che ci sono stati indicati dagli enti di promozione sportiva e comunque dal governo. Mi spieghi bene, Paolo, scusa, perché il passaggio è importante. I protocolli che avete messo in atto, penso da maggio più o meno, sì, chi ve li ha suggeriti? Attraverso quale documentazione vi siete adeguati? Per questo è, allora, un punto importante. Noi che abbiamo una SD abbiamo ricevuto delle indicazioni precise dagli enti di promozione sportiva a cui siamo affiliati e quindi dal CONI. È il CONI che ha promulgato, diciamo, tutti. E quali erano questi protocolli? Cosa prescrivevano? Allora, sanificazione degli ambienti dopo ogni lezione, e lo facciamo, ingressi contingentati, quindi non si può avere un numero di persone superiore rispetto alla capienza della sala, in maniera da poter comunque mantenere la distanza di 2 metri tra una persona e l'altra durante le lezioni di gruppo, o per chi ha attrezzi in palestra la distanza comunque di 2 metri tra un attrezzo e l'altro. E vie di accesso, quindi una via per entrare e una via per uscire, prendiamo la temperatura e teniamo traccia di tutti i presenti, quindi abbiamo nomi, cognomi, temperatura di tutti i presenti, in maniera da avere comunque la possibilità di fare un tracciamento anche dei contatti nel caso dovesse qualcuno ammalarsi o avere comunque sintomi di malattia, igienizzazione ovviamente delle mani con gli igienizzanti, gli spogliatoi non vengono usati, per esempio da noi la gente arriva già vestita e si porta solo le scarpe da cambiare per entrare in sala, e tutte le cose che comunque vengono cambiate vengono riposte in dei sacchettini e tenute separate le une dalle altre. Cioè, stiamo facendo di tutto di più. Io personalmente addirittura i miei ragazzi si allenano con la mascherina, cosa che non sarebbe neanche imposta dai protocolli. Ecco, quindi tu la giornata di ieri, forte del fatto che tu eri perfettamente in regola con quanto ti hanno detto le tue, diciamo, i tuoi riferimenti di categoria, hai cominciato a chiedere in giro qual è questo adeguamento da sostenere per essere in regola entro fine di settimana, in cui tutti temono questo annuncio chiuderemo. Io ieri, a dire il vero, ho fatto una cosa leggermente diversa, perché onestamente non ho apprezzato, e come me migliaia di colleghi, l'atteggiamento del nostro Presidente del Consiglio, perché lui ha detto una cosa a nostro parere piuttosto grave, cioè una settimana di tempo per far adeguare chi eventualmente non è in regola, altrimenti chiudiamo tutti. Intanto è come dire: se tu, Gianluca, domani commetti un'infrazione con la macchina, io tolgo la patente a tutti perché tu hai sbagliato. Ed è, certo, la prima cosa che non ci sta bene. Tra l'altro è una cosa anche discriminatoria, perché per altre categorie non avviene. Se trovano un locale non in regola, chiudono il locale, non l'intera categoria. E questa, diciamo, è una frase che già, diciamo, già in qualche maniera messo in una condizione di non perfetta serenità, diciamo, insomma, dei problemi serissimi. Io che cosa ho fatto ieri? Ho detto: va bene, siccome lui si dichiara preoccupato per quanto riguarda l'ambiente dello sport, ho telefonato a chiunque, Palazzo Chigi, Ministero della Sanità, Istituto Superiore di Sanità, per chiedere se risultassero dei dati di focolai di Covid in qualche modo riferibili a palestre, centri sportivi, comunque ambiente dello sport. Cioè, ci fosse un allarme giustificato se da dei dati oggettivi, giustificato, che nelle palestre italiane c'è un pericolo, ecco. Questo. Allora, questi dati non esistono. Tra l'altro io sono una persona molto diretta e sincera, al Ministero della Salute, anche per errore, credevano di avermi messo in muto la telefonata mentre io li sentivo parlare, io li ho sentiti proprio dire: ma questi dati non esistono, non ce li ha nessuno. Ora, mi dispiace, non sono così maliziosa, non ho registrato la telefonata, ma ti prego di fidarti di quello che ti sto dicendo. Quindi non ci sono. Tu hai chiamato anche l'Istituto Superiore di Sanità, l'hai chiamato l'Istituto Superiore di Sanità? Ho chiamato l'Istituto Superiore di Sanità, i quali mi hanno detto che non hanno assolutamente questo tipo di dati. Mi hanno detto di chiamare il numero 1500, che mi ha risposto che non hanno accesso comunque a questo tipo di dati. Quindi evidenze scientifiche che le palestre, i centri sportivi, le piscine possano essere degli ambienti pericolosi non ce ne sono, di nessun tipo e genere. Quindi io vorrei capire su quale base questo famoso comitato tecnico a cui si appoggia il governo stia mettendo a rischio morte un intero settore, che tra l'altro è un settore ampissimo perché è fatto di palestre, è fatto di piscine, è fatto di ASD, SSD ed è fatto anche di un indotto. Ci sono quelli che vendono l'abbigliamento sportivo, gli integratori, i macchinari, le attrezzature, quindi cioè, stiamo parlando veramente. Senti, di... Senti Paola, ti risulta mettere... anche quello che ho detto io in apertura, che molti utenti di palestra, spaventati da questo, stanno ritirando l'iscrizione o eviteranno sì, di andarci? Perché... Allora, più che spaventati dall'idea che la palestra possa essere un ambiente pericoloso, perché chi ci viene lo sa benissimo che le palestre non sono un ambiente pericoloso, sono spaventati dalla minaccia della chiusura, perché dicono tanto se tra una settimana dovete chiudere, che te li do a fare oggi i soldi? La gente che viene in palestra non ha paura di venire in palestra, perché lo vedono quanto siamo scrupolosi e attenti nel rispetto di tutti i protocolli. Anche ti confesso perché il dubbio mi è venuto anche a me, io volevo riprendere questa settimana la mia palestra vibrante con cui mi scolpisco un fisico eccezionale, ho detto ma ci vado o no, che ci vado a fare, comincio, poi dopo mi fermano dopo una settimana, quindi esiste il problema, fermiamoci solo un istante. Allora 800 24 00 24, questa mattina vorrei a sentire, ascoltare la voce di tutti i gestori di palestre, di piscine, attività sportive, colleghi di Paola De Carlo, che si pongono lo stesso problema che stamattina. Cerchiamo per quanto possibile di fare un po' di chiarezza. Mi sembra di capire da alcuni articoli che leggo davanti a un articolo di Repubblica che esista una sorta di piccolo attrito tra il ministro della Salute, il ministro Speranza e il Ministero dello Sport che su queste linee guida, su questi controlli, su questi livelli di sicurezza. Vediamo che, come al solito, ho sempre la mia stampella di sicurezza quando si parla di sport e voglio parlare con un collega che senz'altro ne sa più di me per capire se veramente il problema è sentito proprio nell'ambito di tutti coloro che si occupano di sport. Ivan Zazzaroni, buongiorno. Piccolo attrito, hai detto? No, hanno litigato, hanno litigato ferocemente. E vabbè, tu ne sai più di me, direttore del Corriere dello Sport, dimmi esattamente che sta succedendo, perché la testimonianza della nostra amica che gestisce una palestra di Wing Chun mi sembra significativa, però dietro cosa c'è? Ha detto quasi tutto, ha trascurato un particolare, che il protocollo che stanno seguendo, applicando le palestre, è stato approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, quindi voglio dire, lo stesso Comitato Tecnico Scientifico si è l'altro giorno diviso tra esperti su apertura e chiusura di palestre e piscine. Andiamo, noi veramente stiamo procedendo a cazzo, è una roba pazzesca, cioè non questa minaccia fra una settimana chiudiamo. Allora, ti do due dati: 200.000 persone lavorano praticamente nelle palestre e piscine, 10.000 sono quelli occupati. Da quando il Premier Conte ha fatto quell'annuncio, è stato quasi azzerato il livello di iscrizione, che era già stato ridotto dal 30 al 70% dopo il lockdown. Durante il lockdown non hanno naturalmente incassato un euro, parliamo di gente che lavora, non è che si diverte. Io non sono un frequentatore di palestra, quindi devo dire che sono un frequentatore di sport, che è diverso. Ma se procediamo, io capisco anche la riduzione del contagio, perché questo è l'idea loro, è quella di ridurre le occasioni di contagio, ma non puoi procedere in questo modo. Tu pensa che nel calcio puoi giocare fino alla prima categoria, ma non puoi giocare in seconda e in terza. I ragazzi sono stati fermati, possono solo allenarsi individualmente, ma all'interno stesso del ministero, perché non soltanto il ministro dello sport si è battuto per non chiudere, ma anche Boccia, altri naturalmente ministri hanno detto così non si può procedere. Io dico solo una cosa, la domanda che mi pongo da un po' di tempo, che può essere provocatoria ma secondo me è reale. Io vorrei chiedere alla gente che lavora nei ristoranti, che lavora nelle palestre, che lavora nelle piscine, preferirebbero prendere il Covid, quindi risolverla possibilmente in 15 giorni, 20 giorni, che fa fortemente. Sì, va bene, naturalmente. Certo. O rimanere senza lavoro per una vita. Guarda, Ivan, è lo stesso problema che io mi ricordo quando andavo in giro a fare l'inviato per la radio della Rai. Spesso andavo a fare reportage, primi anni 90. davanti a delle fabbriche che avevano chiaramente un alto tasso di inquinamento e delle percentuali molto alte di malattie indotte da questo inquinamento. E mi ricordo che l'atteggiamento di chi ci lavorava era proprio quello che dici te, tristemente, drammaticamente, tragicamente. Noi abbiamo bisogno di lavorare. Se c'è una percentuale alta di persone che muoiono per i sistemi di poca sicurezza, parlo degli anni 90, oggi ci sono situazioni molto simili in Italia, anche molto note. Noi comunque dobbiamo lavorare, ogni giorno dobbiamo lavorare. E è tristissimo trovarsi di fronte a questo bivio. Sentiamo un attimo Fabio da Lecco. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io volevo intervenire semplicemente per dire che non ho capito cosa intendono fare, perché supponiamo a che titolo interviene? Ascoltatore semplice o ha una palestra? Frequenta una palestra? Ascoltatore semplice, utente occasionale di palestra, quindi non ho interessi diretti. Però io quello che non ho capito, supponiamo che ci sono in Italia 1000 palestre in regola e 1000 palestre non in regola, cosa succede a fine settimana? Chiudiamo tutti perché alcuni non sono in regola? La ragione per cui questa mattina siamo qui per cercare un approfondimento, sembra... Lei scrive nella sua scheda, vedo, sembra quasi che vogliono comunque chiuderle e prendono tempo, questo è l'atteggiamento secondo lei? Secondo me stanno cincischiando un po' come, diciamo, la cottura a fuoco lento, no? Cioè non te lo dico subito, ti dico attenzione che però poi lo farò, ma so già che lo voglio fare, perché poi i criteri in base ai quali si dovrà decidere se chiudere o non chiudere non sono assolutamente chiari e trasparenti. Cioè, di cosa stiamo parlando? Luca ha sintetizzato ancora il punto di partenza di questa trasmissione, capire perché i criteri che ci ha confermato Ivan Zazzaroni sono criteri stabiliti dal comitato scientifico che stabilisce proprio le norme di sicurezza, oggi non vanno più bene. Sono cambiate le regole, quali sono le regole, quali sono i casi che hanno alzato il livello di guardia, per cui si dice che forse da qui a fine settimana le palestre chiuderanno perché alcune non sono in regola. Su questo riflettiamo un istante e poi riprendiamo. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Melog 800240024, trasmissione dedicata alle palestre, proprietari di palestre, gestori di palestre, frequentatori di palestre. Il presidente Conte ha detto domenica sera: mi giungono notizie di palestre che non seguono i protocolli. Ecco, da chi è arrivata questa notizia? Su quali dati le palestre che non seguono i protocolli sono stati segnalati? Sono stati fatti indagini, accertamenti? Oretta da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. Anch'io come tante colleghe siamo rimaste basite da questa frase sibillina. Noi abbiamo riaperto il 4 di giugno e preparando per tutto il metà maggio, sanificazioni, abbiamo che approntate. Tipo di attività, che tipo di attività stai parlando? Di quale attività? Allora, io ho un centro fitness dentro il quale io personalmente insegno danza classica e danza contemporanea. Abbiamo delle sale molto ampie, poi abbiamo la sala pesi, abbiamo la sala dell'indoor cycling, insomma è un centro fitness completo. Io personalmente, diciamo, parlo per quanto riguarda poi l'attività della danza. Noi abbiamo le bambine distanziate di 2 metri, abbiamo tutti gli asterischi dove metterle, abbiamo i segni sulla sbarra, sanifichiamo eventualmente tappetini usati, anche lì come tutti noi abbiamo gli spogliatoi che vengono goduti il meno possibile, vengono buttati tutti gli indumenti nei borsoni, dei rossoni dentro i sacchi. È tutta una procedura che io mi dico, ma ho aperto il 4 giugno, nessuno è venuto a vedere in tutti questi mesi. Nessuno mi è venuto a controllare se eri in regola, tu hai imperato le regole e nessuno ti ha controllato. Sì, diciamo spendiamo l'ira di Dio tra i disinfettanti eccetera, si lavora come si lavora e ci accontentiamo e quindi non vedo tutta questa... Cioè, per colpa di qualcuno trovo inaccettabile. Tra l'altro è un annoso problema questo delle palestre, perché ci sono situazioni in cui insegnanti insegnano in locali totalmente inadeguati. Quindi Covid o non Covid, cioè se uno è fuori posto da mo. Questo tu dici, questo già a monte a priori c'era un problema, però adesso andiamo, teniamoci alla situazione attuale. Paolo De Caro, ricordo che la capo istruttore della scuola Win Sun Giunca Rossa di Roma, da lei abbiamo aperto la trasmissione, lei che ha lanciato il sasso. Da te, Paola, è mai venuto nessuno a controllare se eri in regola in questi mesi? Allora, non è mai venuto nessuno e ti dirò di più, io sono iscritta in un gruppo su Facebook di tutti i proprietari e gestori di palestre, comunque collaboratori sportivi eccetera, che conta 14.558 iscritti, e ci siamo confrontati, nessuno in questi mesi ha mai ricevuto un controllo. Forse, se ricordo bene, proprio qualche manciatina di controlli fu fatta all'inizio a giugno, ma proprio poca roba. Su 14.000 spicci ne potranno essere stati 5 o 6. Io ora vorrei sapere, secondo il presidente Conte, in una settimana che cosa dovrebbe succedere. Perché se non hanno mai fatto controlli da giugno ad ottobre, non riesco a capire. Su quali dati, diciamo, è stata lanciata questa idea che stanno controllando, stanno mettendosi in regola? Cioè, in teoria ci dovrebbe essere una verifica in questa settimana, se tutti sono in regola, pena la chiusura delle palestre. Sentiamo Paolo da Roma. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Faccio una piccola premessa. La maggior parte dei centri dove lavoro, io sono un personal trainer e insegnante fitness, sono in regola. Altri non ci si avvicinano nemmeno lontanamente, nel senso che, come giustamente diceva la mia collega, non erano a norma dal prima del Covid, figuriamoci adesso. Non ci sono problemi. Preesistente, sì. Che oggi magari assume dei contorni più gravi, però era già un problema preesistente. Cioè, sì, ma non ci sono ingressi contingentati, non esiste un controllo della temperatura, la gente entra da fuori con le scarpe da fuori, ci si allena senza asciugamani. E non solo questo, alcuni miei colleghi, che purtroppo positivi al Covid, non l'hanno potuto nemmeno dire, non sono più andati ad insegnare, perché altrimenti il centro sportivo sarebbe chiuso, la palestra sarebbe stata chiusa. Questa è una cosa grave, se una persona non denuncia. E loro avrebbero perso il posto di lavoro. Questa è una cosa molto grave, Paolo, pensare persone che sono risultate positive, che hanno allenato fino al giorno prima, poi in un lavoro con tutte le distanze, comunque c'è un buon livello di vicinanza, anche se si mantengono le distanze, che non possono dire e non danno agli altri la possibilità di verificare, fare i tamponi, mettersi in quarantena. Questo è un dato un po' grave. Sentiamo ancora il collega Ivan Zazzaroni, che ricordo direttore del Corriere dello Sport. Ivan, hai sentito due posizioni. Ma non significa nulla questo, nel senso che in tutti i settori, in tutti i campi dello sport e non solo, sono delle situazioni in ristoranti, trattorie che non sono a norma. Cosa vuol dire? Ci chiediamo tutti questo. Ivan, che ci sono anche ministeri con persone risultate positive, ma non si sa. Che non sono a norma nemmeno loro, comunque. Chiudono la stanza all'ufficio, ma non è che dicono in questo ministero c'è stato un caso di Covid. Però se io sono positivo, istruttore positivo e mi isolo e non vado a lavorare, insomma, già ho fatto il mio, il 50% del mio l'ho fatto. Dico semplicemente questo. Qui stiamo lavorando senza tracciamento, senza trasparenza dei dati, e soprattutto a giugno, quando le palestre hanno riaperto, tutti o quasi tutti gli esperti dicevano: guardate che in autunno si ripresenterà il virus. Bene, non hanno fatto assolutamente nulla, a parte le palestre che hanno speso, chi ha speso 50.000 euro per adeguare al protocollo del CTS, lo ripeto, degli esperti del CTS, quindi del governo. Ha speso anche 50.000 euro pur non avendo fatturato per dei mesi. Quindi io credo che punire la maggioranza delle palestre organizzate a norma, che hanno istruttori laureati in scienze motorie, perché anche questa è una cosa fondamentale, per colpa di alcuni che non lavorano in un certo modo, che non hanno fatto protocollo, mi sembra veramente una follia da paese antidemocratico. E quindi io credo sinceramente che le ispezioni non le fanno, i dati non li hanno, andiamo per il sentito dire: ho saputo che sono delle palestre che non... da chi? Allora ci dici: ho saputo da Giovanni, da Francesco, dal CTS che la palestra tal dei tali non è a norma, perché veramente guarda che è una roba a terzo mondo fare una cosa del genere. Cioè, io ho il 70% delle palestre funzionanti sotto protocollo, che hanno fatto investimenti, strutturato anche questo discorso, e per colpa di un 10, 15 o 20% devo mettere a casa 10.000 persone che ci lavorano, 10.000 famiglie anche oltretutto, a me sembra veramente follia pura. Se tu vai nei campi di calcio di prima categoria, pensi che il protocollo sia applicato al massimo livello o anche dilettanti? Cercano di fare quello che possono, evidentemente, però bisogna che ci dicano, prima di chiudere determinati settori della vita, quali focolai si sono accesi in quali palestre. A me non risulta che è il dato che ha cercato palestra. Di capire Paola De Caro, chiamando il Ministero della Salute, chiamando l'Istituto Superiore di Sanità, gli hanno detto questo dato al momento non esiste, non è scorporato o non si sa. Ma secondo te, in questa sorta di disputa politica che sta avvenendo, tu mi hai confermato che io ho detto c'è un po' di frizione, ho detto no, si stanno accapigliando. Ecco, cosa c'è dietro? Qual è il problema che c'è dietro fra Ministero della Salute e Ministero dello Sport? Con valutazione di uomo che conosce bene il mondo dello sport, perché oggi sulle palestre c'è questo margine così alto di ambiguità? Io non ne faccio un problema esclusivamente politico, perché anche se mi sono reso conto che in Italia c'è un virus di destra e un virus di sinistra, mascherini di destra e mascherini di sinistra, questo l'abbiamo capito tutti. Ne sì, faccio... ne parliamo dall'inizio, lo diciamo, esatto, così. Esatto, ne facciamo una questione di sopravvivenza economica del paese, di disoccupazione che sta aumentando a dei livelli incredibili, per cui qualcuno più sensibile dice proviamo a migliorare il nostro rapporto con il virus, magari esigendo un rigore massimo sul discorso del protocollo, perché sennò non funziona neanche quello. I numeri sono migliori per adesso di quelli di altri paesi, perché chiudere significa morire. Cioè io non so come ripeterlo, qui avete sentito dei tecnici, gente che ci lavora, cioè, se chiudono la palestra per altri 1, 2, 3 o 4 mesi, non la riaprono più. Quando non la riaprono più, vanno in strada, hai capito? E poi vediamo quello che succede, cioè c'è anche una questione di carattere sociale. Io penso semplicemente dobbiamo ricondurre il tutto alla domanda, se voi stupida, se voi provocatore, che siamo fatti prima. Cioè, cosa preferite? Essere morti viventi oppure rischiare il contagio e quindi risolverla possibilmente in 10-15 giorni? Perché, ti ripeto, ci sono le macchine, le palestre normali, sono le macchine a 2 metri di distanza, prendono temperatura, le docce le fanno isolare, cioè è tutto lì il problema. Io che lavoro bene, prima la De Caro ha detto una cosa molto intelligente, se io guido bene, no, e tu guidi male, perché devono togliere la patente a entrambi? Certo, io non passo te, con rosso, giustamente. Passi con rosso. Diciamo che se volessimo farci un giro davanti a tutte le scuole, soprattutto le scuole di ordine superiore, vedremo che i banchi distanziati, i banchi a rotelle, le condizioni di sicurezza saranno state senz'altro un'ottima misura applicata dentro le classi, ma nella mezz'ora che precede il suono della campanella all'entrata succede di tutto, e sfido chiunque a dirmi il contrario di questo. E nessuno in questo momento, nell'intangibilità giusta che condivido dell'istituzione scolastica, dice beh, abbiamo avuto notizia che davanti alle scuole i ragazzini montano uno sopra l'altro, poi quando entrano stanno anche distanziati, ma fuori continuano a fare la solita piacevole gazzarra che abbiamo fatto tutte le generazioni. Ecco, su questo ci fermiamo ancora un po', mandiamo le notizie del traffico, poi riprendiamo. Melog 800240024, arrivano tantissime telefonate da proprietari, gestori di palestre, di piscine a tutta Italia. Sentiamo Giovanna da Genova, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Giovanna e ho uno studio Pilates a Genova Centro. Allora, noi abbiamo chiuso la prima volta il 9 di marzo, abbiamo riaperto i primi di giugno, mettendoci in regola assolutamente con tutto, anzi forse anche qualcosa di più. Noi abbiamo termocamere che misurano la febbre all'ingresso e registrano i dati su un computer che tiene questi per circa una ventina di giorni, in modo da sapere chi è entrato e con chi è venuto a contatto. Abbiamo 2 sale da 50 metri quadri, abbiamo 3 spogliatoi, le persone entrano a piccoli gruppi di 4 per volta nelle sale, sanifichiamo ogni cambio ora tutto. Però tutto questo non è considerato, non abbiamo mai avuto nessuno che abbia avuto la voglia di venire a vedere, pur avendo scritto. Scusami Giovanna, una domanda, tu hai dovuto fare un discreto investimento per adeguarti a tutte queste norme, penso che non è una cosa che a costo sì, zero. Solo la termocamera mi è costata 1.300 euro, solo la termocamera. quindi poi tutto il resto, tutto ciò che però va benissimo, nel senso che per carità va bene, lavoriamo e cerchiamo di osservare tutte le norme, però quando poi sento diamo i sacrificabili, come è stato detto in televisione, a me va il sangue al cervello, anche perché cosa significa sacrificabili innanzitutto e poi perché? Noi non abbiamo mai avuto nemmeno una persona che sia entrata con 37 di febbre, lo so che gli asintomatici purtroppo non hanno febbre, però non mi puoi chiudere perché, per quale motivo? Quello vale ovunque, quello è un problema che ci portiamo dietro in qualunque momento e espressione della nostra vita. Massimo da Varedo, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Ascolto. Io sono un proprietario di una piscina, una delle pochissime piscine da 50 metri in Italia coperte, e abbiamo chiuso la prima volta il 24 di febbraio e abbiamo riaperto per nostra volontà il 5 di giugno, potevamo aprire dal 25 o 27 di maggio mi pare, abbiamo tergiversato ancora una settimana per poter ulteriormente affinare tutto quello che erano state le nostre affinare praticamente quello che avevamo messo in atto per seguire in maniera pedissequa il protocollo che ci veniva fornito da federazioni e da governo. Abbiamo fatto un investimento che consta in circa tra i 15 e i 20 mila euro. E ci avviciniamo alle cifre che ci ha detto poco fa Ivan Zazzaroni. Tu hai speso 15-20 mila euro per essere adeguate alle norme di sicurezza, quindi no, non ti si può certo imputare di non averci messo impegno per continuare a fare il tuo lavoro. Abbiamo dovuto assumere dell'ulteriore personale perché noi abbiamo due spogliatoi all'interno della piscina, uno maschile e uno femminile, abbiamo due persone che di continuo vanno a sanificare e passano salviette umidificate con il disinfettante là dove praticamente passano le persone, non rimane niente nello spogliatoio, ognuno riporta la sua borsa, la depone praticamente all'interno di un armadietto dentro la vasca perché non facciamo più lasciare niente nello spogliatoio, insomma abbiamo seguito tutto il protocollo che c'è stato. E quindi anche tu sei in attesa di quello che potrebbe accaderti entro il fine di questa settimana. Luca da Ravenna. Nicoletti, buongiorno. Intanto complimenti per la trasmissione, per il contegno che sempre tiene. Io molto più modestamente sono un utente di palestra, quindi dall'altra parte, e posso portare la mia testimonianza, nel senso che devo dire che c'è stato il massimo impegno dalla palestra che frequento per fare una compliance con quelle che sono le regole dettate dal governo. Dall'altra parte però devo rilevare che la finalizzazione di queste regole è delegata in ultima analisi, almeno sala pesi, agli utenti. È chiaro. E gli utenti, devo dire, siccome il gestore della palestra non è uno sceriffo, gli utenti fanno un po' quello che vogliono. E quindi fammi per un esempio negativo che di cui non ha colpa certo il gestore della palestra. L'esempio negativo è non indossano la mascherina. Circolano liberamente a destra e a sinistra senza, perché in realtà nello sforzo fisico uno potrebbe rimuoverla, almeno questo era il regolamento. Poi dopodiché però ovviamente nel circolare nei locali devi tenere, questo non accade nello spogliatoio, allora, nessuno tiene la mascherina eccetera. Però abbiamo capito il problema, c'è una grande attenzione da parte dei gestori per adeguarsi. Gli utenti siamo noi che dobbiamo ancora una volta non cercare di fare i furbi sempre. Paolo De Chiaro, una battuta, poi chiudiamo con Ivan Zazzaroni. Il fatto che le palestre chiudano è un po' in controtendenza rispetto all'attenzione che si vuol dare a limitare le movide. Se chiudono anche le palestre ci sarà ancora più gente per strada. Sì, soprattutto ragazzi giovani, perché comunque molti frequentatori dello sport in generale sono ragazzi giovani. Se gli chiudiamo anche la possibilità di impegnare alcune ore delle loro giornate in attività sportiva, ce le ritroveremo tutti in giro per strada, al parco, ad ammassarsi l'uno sull'altro. Io vorrei ricordare, consentimi, che lo sport promuove la salute, promuove il rispetto, promuove la disciplina. In palestra i ragazzi imparano a comportarsi anche all'esterno. Cioè, io trovo veramente assurdo, è vero quello che ha detto adesso il cliente, è vero, gli utenti a volte, intanto moltissime palestre, la mia per prima, noi facciamo grande attenzione, è vero che non possiamo fare gli sceriffi ma facciamo grande attenzione, ma è anche vero che le stesse persone che si comportano male in palestra si comportano male al ristorante, al bar, per strada, sono al gli stessi, esattamente gli stessi. Allora Ivan Zazzaroni, grazie Paola, ti saluto, manca un minuto e mezzo, voglio lasciarlo a Ivan Zazzaroni, anzi anche meno, adesso ne manca ancora meno. Ivan, secondo te come va a finire questa storia? Come va a finire questa storia? Io spero che non chiudano, questo mi sembra naturale, spero che capiscano che l'attività sportiva fa bene anche alla testa, ha una funzione preventiva e antidepressiva. Ti faccio solo un esempio sui giovani in particolare, nei 3 mesi di lockdown, quindi no attività sportiva, una società di settore giovanile ha registrato su 350 ragazzi un aumento di peso dai 3 ai 10 kg e soprattutto depressione nei ragazzi dai 6 ai 17 anni. Io credo che anche questo sia un dato che vada assolutamente, ecco. Voi ti chiami Aldini da Riviera, ti do anche di Milano, quindi hai anche il dato tracciato. Ci riprendiamo questo filo, guarda Ivan, mi dai l'impressione di l'idea di poter riprendere l'argomento su questo fatto, avremo dei ragazzi obesi e depressi se pensiamo che le palestre siano secondarie rispetto all'equilibrio generale della nazione. Grazie Ivan Zazzaroni, Paola De Caro, tutti quelli che hanno partecipato. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.